Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Abbiamo iniziato a parlare dell'età romantica, quel periodo che va dai primi decenni dell'Ottocento alla fine, praticamente l'ultimo decennio dell'Ottocento. Il periodo romantico, e lo vedremo oggi quando parleremo dell'autore di oggi, Frédéric Chopin, con il periodo romantico prendono sempre più piede le piccole forme, dei brani di pochi minuti di musica che all'interno di una piccola costruzione architettonica chiudono una sorta di racconto o di immagine sonora. Schubert, che proviene dal periodo classico dal punto di vista della proposta dei brani delle grandi forme, scrive anche una quantità estremamente ampia di brani da salotto, e alcuni di questi sono tra i brani più importanti di tutto il periodo romantico. Gli improvvisi per pianoforte, i lieder, ne ha scritte alcune centinaia, quindi questi piccoli brani per voce e strumento, i brani per pianoforte a quattro mani. Il pianoforte a quattro mani era proprio l'emblema della house music, della musica da casa, era quasi un'idea di musica per signorine di buona famiglia che in serate familiari si mettevano al pianoforte e suonavano questi brani, solitamente non particolarmente difficili, per il piacere di fare musica. Ecco, con Schubert questi brani per pianoforte a quattro mani raggiungono un livello di profondità espressiva, di contenuto poetico, che non troviamo in tutto l'Ottocento musicale. La fantasia in fa minore, il rondò all'ungherese, brani scritti per questa formazione, pianoforte a quattro mani, la musica da suonare leggendo durante le serate casalinghe. In realtà sono brani portatori di una forza musicale, una forza espressiva assolutamente fuori da ogni previsione. Il 29 di marzo del 1827 si celebrarono a Vienna i funerali di Beethoven e, secondo le cronache, ci furono tra i 10 e i 20.000 partecipanti a queste onoranze funebri. Schubert fu tra quei giovani, nonostante fosse già ammalato, che portarono il feretro all'uscita della basilica. Schubert sembra che da quel momento si svincoli da un peso, da un confronto, non perché scriva cose differenti come struttura, scrive per esempio le ultime tre sonate per pianoforte, che sono un capolavoro assoluto e sono un esempio di forma classica, ma la qualità, la profondità espressiva proposta da quel genio che era Schubert raggiunge in quegli ultimi mesi le vette più alte che Schubert riesca a proporre. In quei mesi scrive degli improvvisi per pianoforte, brani non esageratamente difficili, ma che sono di una ricchezza, a volte nascosta, musicale, straordinaria. Il brano che vi farò sentire ora è l'improvviso opera 90 numero 2. È un brano che viene eseguito anche nei programmi di conservatorio per il quinto anno, quello che è un livello medio della prima metà del percorso di conservatorio. Il brano è questo. Superiore, quella che dovremmo in teoria immaginare come melodia, è un sostegno, è un ritmo di valzer delicato. Ora, la melodia della mano destra in realtà non è una melodia cantabile, è troppo brillante, quasi una scala più che una vera e propria melodia. La melodia, a ben guardare, sta nella mano sinistra, in quello che dovrebbe essere l'accompagnamento di questo valzer. E abbiamo una linea melodica semplicissima in realtà. Poche note. Però vi dicevo prima che in Schubert diventa sempre più importante l'idea della poetica, l'idea del canto, come se ci fosse un testo. E qui abbiamo una melodia di poche note. Che serve da sostegno, ma che viene continuata da una parte che sembra più corale. sorta di cantore solista che propone questa prima frase e un piccolo coro che risponde. Sembrano quei canti popolari più da birreria che da riunione tra poeti, che hanno un cantore che propone una frase e il gruppo di amici che sta intorno che risponde in modo sempre uguale, ripetitivo, strofico a questa proposta. Ecco, questa melodia è lì sotto. Quasi non la sentiamo perché sentiamo questo ritmo del valzer e poi c'è questa collana di note della mano destra che in qualche modo prende il sopravvento, è la parte più acuta, il nostro orecchio tende a sentire maggiormente i suoni alti. Però questa melodia che è lì sotto dà il carattere a questo improvviso, che a volte viene eseguito quasi come un esempio di abilità digitale, ma che in realtà all'interno ha una poetica molto delicata, molto raffinata e direi anche emblematica di quello che era un modo di fare musica tra amici, il canto, con la risposta degli altri cantori in coro. Gli improvvisi erano brani quasi improvvisati, appunto. Erano brani che nascevano lì, brani del momento. Poi è chiaro che il compositore li correggeva, li aggiustava, li limava, però fondamentalmente erano brani che dovevano avere il carattere della nascita molto all'impronta. È diviso in quattro parti. Una parte A, che è questo primo valzer. Una parte B che fa da contrasto alla parte A, è un valzer anche quello, ma è molto più agitato. Rispetto all'eleganza del valzer più nobile o più delicato proveniente da Vienna. Schubert scrive questo improvviso dividendolo in quattro parti, una parte A, una parte B, la ripresa della parte A e una piccola ripresa della parte B che va a chiudere. È un brano di pochi minuti, dura meno di 5 minuti, però al suo interno abbiamo due valzer di due spazi geografici vicini ma differenti come spirito musicale e una poetica nascosta da questo canto sotterraneo. Che è veramente nascosta da una mano destra brillante, ma che in realtà è solo l'ornamento. Ecco, all'interno di questo piccolo brano c'è già una quantità di elementi musicali che ne fanno un piccolo gioiello della poetica del primo romanticismo. L'improvviso che vi ho fatto sentire è il primo esempio di una piccola forma che percorrerà tutto quello che è l'Ottocento musicale. Perché c'erano le piccole forme? Perché stava cambiando anche il modo di fruire la musica d'arte. Fino all'epoca di Mozart, di Beethoven, c'erano le cosiddette accademie. Andare a teatro significava passare dal pomeriggio alla sera ascoltando musica per diverse ore. Ecco, stavano cambiando un po' le abitudini musicali, perché c'era a poco sempre più l'abitudine di fare musica nei salotti, che potevano essere i salotti di amici artisti, come per Schubert, piccoli cenacoli di qualche decina di persone, poeti, pittori, attori, che condividevano le proprie creazioni musicali, e poi quei salotti nobili in cui Chopin diventerà una star. Quei salotti dove nobili, in questo caso a Parigi, esuli da altri paesi, molto spesso nel caso di Chopin, esuli dalla Polonia, organizzavano serate musicali e in quelle serate musicali viene naturale pensare che non trovassero posto i grandi lavori, ma era più piacevole ascoltare piccoli brani di pochi minuti che in qualche modo diventavano una sorta di bouquet di tanti momenti musicali, quantomeno gradevoli, per non dire profondi, come nel caso di artisti come Chopin. Altri artisti ce n'erano, ma sicuramente dimenticati dalla storia. Ecco, Chopin a Parigi nei primi anni 30 diventa una vera e propria star di questi salotti musicali. Scrive esclusivamente o quasi esclusivamente per pianoforte, il suo strumento. Lui è pianista, parte dalla Polonia per andare a Vienna alla fine degli anni 20, non trova a Vienna quell'ambiente musicale che si aspettava di trovare e da lì passa a Parigi. una Parigi che poi non lascerà praticamente più fino al 49, l'anno della morte. Lascerà Parigi per andare a Maiorca con George Sand, ma viaggi più per motivi di salute che per tournée di concerti come quelle piccole che farà durante la sua vita, ma comunque mai tornerà in Polonia. Ecco, in questi salotti Chopin crea una intera produzione basata su questi piccoli lavori. Scrive notturni, genere emblematico per Chopin, valzer, mazurche, memoria del suo paese d'origine, polacche e poi ballate. Poi scrive scherzi ed è curioso notare come prende quello che è un movimento della sonata, lo scherzo, e Chopin scrive degli scherzi che non sono all'interno di una sonata, sono a parte, brani isolati, e scrive anche dei preludi che non preludono a nulla, 24 preludi che sono brani isolati da qualsiasi contesto di raccolta. Ho iniziato con un improvviso, proseguirò con un altro improvviso, questa volta di Chopin. Un improvviso che Chopin scrisse appena giunto a Parigi, è un improvviso che viene definito improvviso fantasia. In realtà il termine fantasia non è di Chopin. È un improvviso che ha caratteristiche simili a quelle di Schubert. Una prima parte A, molto brillante. Cantabile. Dove c'è la parte A e la parte B messe praticamente insieme. La lentezza della melodia della parte B viene associata alla brillantezza della parte A. Un brano che Chopin scrive nei primissimi mesi parigini, prendendo spunto da un brano di un compositore dimenticato, Moscheles. È un brano che non ha all'interno quegli elementi di ricchezza che poteva avere Schubert, però già comincia a indicare quell'idea di linea melodica non cantabile, una voce umana non potrebbe. Chopin, il nostro interesse musicale si sposta a questa linea melodica che non è cantabile, che non è in qualche modo memorizzabile per riprodurla e canticchiarla, ma che ha la dolcezza di quella linea melodica che con Schubert non è l'elemento principale. Sono delle scale. Con Chopin invece queste piccole notine già la caratteristica di una presenza principale. La parte della mano sinistra è soltanto un piccolo sostegno armonico. Niente di più. È la linea melodica che ci interessa. E questa linea melodica, che non è cantabile, comincia a diventare qualcosa di emblematico in Chopin, come poco a poco vedremo. Al termine, la parte finale di questa melodia. Abbiamo la mano destra. Come se questa melodia venisse ripresa alla fine da un violoncello. E nella coda finale non c'è una ripresa della parte B, ma è la parte A e la parte B che si mischiano e vanno a chiudere il brano. Non è un caso che con Chopin ci siano delle melodie alla mano sinistra. Chopin aveva un rapporto di amicizia fraterna, con un grande violoncellista dell'epoca che era Fanchon, e molte melodie di Chopin, a differenza di quelle che era l'abitudine della linea melodica proposta composte dai compositori, cioè la parte più acuta, quella del violino, molte melodie sono presenti nel registro medio-basso che è quello del violoncello. Tra l'altro Chopin, nella propria produzione, avrà solo pochissimi brani dalle forme ampie. 3 sonate per pianoforte, in realtà 2, perché la prima venne scritta quando aveva 12 anni, è più uno studio di giovane studente di composizione, l'opera 4, però c'è l'opera 35, la seconda di queste 3 sonate, che è quella che viene considerata in realtà la prima ufficiale, che è quella con la celebre marcia funebre, e poi la sonata opera 58, la terza, che è quella che viene appunto la seconda delle 2 grandi sonate di Chopin. E poi ha scritto una sonata per violoncello e pianoforte. È un trio, violino, violoncello e pianoforte. Altri brani dalle forme ampie non ce ne sono nell'ambito della musica da camera, solo piccoli brani. È una scrittura che però all'interno di piccoli brani sfoga tutta la propria genialità creativa. Ecco, questo è un brano scritto quando Chopin aveva 19-20 anni. Il prossimo invece è un improvviso, un altro improvviso, di pochi anni successivo. Anche questo è diviso in una parte A, una parte B, era la forma classica della piccola forma improvvisativa, e la ripresa della parte A che poi va a concludere. Al di là della leggerezza, la prima parte, la parte A, forse anche un po' meno di quella dell'improvviso precedente, ma molto più ricco armonicamente. La cosa che invece è già più in avanti dal punto di vista della proposta musicale è la parte B, dove questa linea melodica questa linea della mano c'è un accompagnamento fatto di accordi. Che dà un senso quasi di andamento un po' pesante, quasi un po' claudicante. Questo andamento così sghembo, se vogliamo, è dato dal fatto che per ogni accordo il nostro orecchio si aspetta di sentire quella che viene chiamata la fondamentale. Prima questo. Chopin li ribalta. Mette prima la parte piena dell'accordo e poi mette la parte fondamentale. Senso di andamento non equilibrato con la linearità di questa linea melodica molto semplice. La linea melodica questa sì cantabile, che però con questo accompagnamento girato al contrario, invece di avere prima l'appoggio forte come ci aspetteremmo, abbiamo un appoggio debole, poi cade su quello che è l'elemento più forte. È sufficiente questo rovesciamento dell'importanza delle parti per dare un andamento molto più drammatico, molto più sofferto rispetto a quello che sarebbe stato con una scrittura prevedibile. Nella parte più cantabile, quella mano sinistra che non appoggia su un tempo forte crea in realtà un senso di squilibrio che volutamente accentua il lato drammatico di questa melodia. E poi c'è questo finale che è un finale per sottrazione. Si arriva alla fine con questa serie di accordi. Poi ne toglie una parte. Ne toglie ancora uno. E poi chiude. sottrae materiale per arrivare all'ultimo accordo finale. Tutto questo in brani di pochi minuti che sono la rappresentazione di un'improvvisazione musicale proposta in una serata musicale non tanto per artisti quanto per appassionati di musica, facoltosi in questo caso. In un'occasione parlai, suonando musiche di Chopin, della difficoltà dell'ascoltatore e mi fece notare che in realtà Chopin non è difficile da ascoltare, anzi piacevole, è molto cattivante, coinvolgente. In realtà all'interno ci sono elementi di una tale forza espressiva che ne fanno un autore estremamente complesso se andassimo ad analizzarlo nel singolo particolare. È chiaro che per un ascolto anche consapevole non è necessario analizzare ogni singola battuta del brano e ogni singolo accordo. Però è curioso notare come per un autore che è considerato l'emblema della musica, tra virgolette, piacevole, beh, all'interno ci siano elementi di una tale complessità compositiva. Io ovviamente sto citando solo quegli elementi più immediati, l'idea di una mano sinistra che propone un andamento rovesciato rispetto a quello che la parte armonica farebbe immaginare. Però ogni singolo punto armonico proposto da Chopin è estremamente ricco di una fantasia compositiva e di una maestria creativa estremamente complessa. Ora lasciamo gli improvvisi e passiamo a un altro genere emblematico del salotto romantico dei primi decenni dell'Ottocento, il valzer. Il valzer che in teoria è la musica da giardino, la musica da festa popolare, la musica di Johann Strauss, padre e figlio, che viene eseguita durante il concerto di Capodanno, è fondamentalmente la musica leggera dell'epoca, che poi in un recupero storico venga proposta anche nei concerti di orchestre sinfoniche, venga proposta in occasione del clima festoso del concerto di Capodanno da Vienna, ma rimane comunque musica pensata come musica leggera. Ecco, i valzer erano una musica leggera anche dei salotti dei primi decenni dell'Ottocento. Ora, il primo valzer che vi farò sentire è un valzer celeberrimo, dura pochissimo, dura poco più di un minuto, infatti è chiamato il minuto valzer, il valzer del minuto. Vi faccio sentire prima questo perché corrisponde a queste caratteristiche di brano leggero e brillante. Però poi, lungo il percorso, il secondo e il terzo che vi farò sentire, il clima del valzer muterà. Sempre valzer sarà, ma la forza espressiva che Chopin riesce a trasmettere in un brano così leggero, brillante e festoso come il valzer, in Chopin assume un carattere totalmente differente. Ecco, questo è il valzer opera 64 numero 1. Su questo valzer ci sono diversi aneddoti. È chiamato il valzer del cagnolino, da un fantomatico aneddoto di questo cagnolino che si rincorrerebbe per mordersi la coda. Più comunemente chiamato il valzer del minuto perché c'è chi cerca di farlo durare un minuto, ma poi alla fine, se uno vuole fare la parte B un po' più dilatata, un minuto non dura, dura un po' di più. Anche questo è un valzer con parte A, parte B, tranquilla, e parte A come ripresa. Dura comunque poco più di 60 secondi alla fine. Ecco, questo è un valzer che ha una melodia ciclica. Questo girare di queste quattro note, quasi una piccola trottola. Ecco, Chopin scrive a una sua allieva che non c'è brano scritto da lui che non abbia, anche quando ineseguibile, un'idea di melodia cantabile, anche quando non cantabile, quando non umanamente eseguibile per una voce. Ma l'idea che la melodia sia sempre qualcosa di idealmente cantabile. Ecco, qui abbiamo una melodia estremamente rapida, estremamente estesa, quindi non umanamente cantabile, ma che per Chopin è un esempio di come tutto sia linea melodica, tutto sia potenzialmente cantabile. Thank you.